Mezzogiorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Gli scandali a ripetizione per la Casa Reale Spagnola, la malattia e oggi l'annuncio: Juan Carlos ha abdicato, gli succederà Felipe. Mentre il Movimento 5 Stelle si divide sull'eventuale alleanza con Farage, Grillo dal blog parla di brogli. In arrivo le raccomandazioni della Commissione Europea per l'Italia, probabile un invito a rispettare gli obiettivi di deficit, ma senza richiesta di manovra correttiva. Resta alta la polemica sulla RAI per le parole di Renzi, che parla di sciopero umiliante, lusigrai. Prendiamo comunque atto che si vuole rilanciare il servizio pubblico, ma no a tagli di organico. E dopo l'annuncio dello sblocca Italia arriva un primo parziale quadro delle opere ferme o mai partite, rigassificatori, tratte autostradali e non solo, per un totale di 372 cantieri. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete contattarci, come sempre, Effetto Giorno a radio24.it, il mio account Twitter, Simone Spezia. Gli sms 349-238-6666, non lo abbiamo messo nei titoli, ma parleremo naturalmente anche della nazionale. Una buona festa della Repubblica a tutti, innanzitutto, in questa giornata però apriamo parlando di monarchia, di un re che ha deciso di abdicare. Io spero che in un plazo muy breve las Cortes españolas puedan proceder a la proclamación como rey de España del que hoy es príncipe de Asturias. Il premier Mariano Rajoy ha annunciato oggi al Palazzo della Moncloa l'intenzione del re Juan Carlos di abdicare in favore dell'erede, il principe delle Asturie Felipe, al quale trasmetterà le funzioni di capo dello Stato. La notizia è stata data dal primo ministro in una conferenza stampa in cui Rajoy ha ringraziato il re. Juan Carlos, lo ricordiamo, fu incoronato re di Spagna il 22 novembre del 1975 dopo la morte di Francisco Franco. A lui si deve la transizione alla Costituzione democratica. Il trono di Spagna passa ora dunque a Felipe, principe delle Asturie, figlio di Juan Carlos e della regina Sofia. Felipe, che ha 46 anni, è sposato dal 2004 con la giornalista Letizia Ortiz e con lei ha avuto due figlie, l'infanta Leonor, nata nel 2005, e l'infanta Sofia, nata nel 2007. E proprio Leonor sarà la prossima nella linea di successione al trono spagnolo dopo il padre. Don Felipe diventerà re col nome di Felipe VI. Negli ultimi anni Juan Carlos ha avuto diversi problemi di salute e questo in alcune occasioni l'ha tenuto lontano dagli eventi istituzionali. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo all'Italia, dove si continua a discutere nel post elezioni, da un lato sulle alleanze, il discorso che riguarda soprattutto il Movimento 5 Stelle, così come riguarda il Movimento 5 Stelle l'attacco di oggi di Beppe Grillo, che parla di brogli. Facciamo dunque il punto col nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Sembra lontano, Simone, l'immagine di Beppe Grillo che prende il Malox e di fatto ammette la sconfitta alle europee. È invece passata solo una settimana e la versione del leader 5 Stelle sull'esito della consultazione elettorale è completamente cambiata, così almeno a leggere dal suo blog, dove oggi si parla apertamente di brogli, in particolare a vantaggio del Partito Democratico. Il post pubblicato dal titolo "Broglio sì, broglio no, la terra dei cachi" esprime allora forti sospetti sul voto del 25 maggio scorso. Si parla quindi di stupro alla logica per credere alla debacle 5 Stelle, si avanza l'ipotesi di avviare una verifica del voto soprattutto in quei seggi definiti rossi dove già in passato si sono verificati brogli, sotto accusa in particolare quelle che vengono definite relazioni amicali e parentali degli scrutatori e presidenti dei seggi. A sostegno della propria tesi il blog pubblica poi alcuni exit poll italiani ufficiali diffusi in Gran Bretagna e che alle 20 del 25 maggio davano addirittura avanti 5 Stelle sul Partito Democratico. Poi qualcosa è cambiato. Sul blog di Grillo, Simone, c'è poi un attacco indiretto al sindaco di Parma Pizzarotti, che risulterebbe ultimo tra i sindaci a 5 Stelle in termini di gradimento. Quanto alla probabile alleanza in sede europea con il britannico UKIP, si legge: Farage non è un mostro e le sue affermazioni sono state tolte dal contesto. È tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Amiglietta. Un altro argomento del quale si continua a discutere sono i tagli alla RAI. 150 milioni di euro. Ieri il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, è stato molto duro. Ha detto: se i dipendenti avessero proclamato sciopero prima delle elezioni avrei preso il 42,8% e non il 40,8%. E ancora ha detto: è uno sciopero che è umiliante nel momento nel quale le famiglie stringono la cinghia. La nostra Valeria De Rosa ha intervistato il segretario dell'Usigrai, che è il sindacato dei giornalisti della RAI, Vittorio Di Trapani, pardon, non il segretario ma il presidente. Ascoltiamo l'intervista. Il primo capitolo è il rinnovo della concessione di servizio pubblico. Non aspettiamo il 2016, facciamolo subito, ora nel 2014. E poi rottamiamo i partiti e i governi dal controllo della RAI. E ancora, lotta agli sprechi e lotta all'evasione. Intorno a questi temi il confronto ci può essere e speriamo che arrivi presto un segnale da parte del governo chiaro su questi punti. Dopo le parole di Renzi, anche da parte vostra, forse si è un pochino ammorbidita la posizione, anche se immagino che il termine non ti piaccia. Non si è ammorbidita. Prendo atto che il Presidente del Consiglio ha finalmente parlato di riformare la RAI, riformare il servizio pubblico. È quello che noi chiediamo da tempo. Se il tema è la riforma, se il tema è costruire una nuova RAI per il futuro, rilanciare il servizio pubblico, noi siamo i primi a chiederlo. E anche laddove si dovesse aprire una discussione, finalmente per andare a colpire i veri sprechi. Il confronto deve essere sicuramente a tre: il governo, l'azienda e i sindacati. Ciò che sicuramente non possiamo accettare è il tema del taglio all'organico. Riorganizzare si può, tagliare no, tagliare l'organico assolutamente no. Però ci sono altre cose da tagliare e forse c'è anche un diverso modo di intendere la RAI come servizio pubblico, perché ricordo in passato molte produzioni erano fatte tutte all'interno. Infatti noi chiediamo un'operazione verità sui conti. Se bisogna riformare la RAI, e allora parliamo di appalti, di consulenze esterne, di produzioni esterne, di contratti di collaborazione superpagati, parliamo di tutto questo e sarà possibile riformare la RAI. Per quanto riguarda i contenuti, sia giornalistici che non. Quello che serve è un progetto complessivo. Che servizio pubblico si vuole per l'Italia e per il futuro dell'Italia? Questa è la prima domanda. A quel punto possiamo costruire finalmente la nuova RAI, che noi come sindacato riteniamo che debba essere la RAI dell'innovazione. Allora, questo è il quadro per quanto riguarda la RAI, e c'è un'altra questione economica e più strettamente economica ovviamente che ci riguarda: il fatto che alle 3:30, alle 15:30 arriveranno le raccomandazioni della Commissione Europea. Sentiamo quali sono le attese nel servizio del corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore. La Commissione europea presenterà oggi, come ogni anno, le sue raccomandazioni di politica economica ai paesi dell'Unione. Lo sguardo sarà rivolto soprattutto a Francia e Italia, due paesi in difficoltà. L'esecutivo comunitario vorrà pungolare i due paesi a modernizzare la loro economia, tenendo conto tuttavia della difficile situazione economica e sociale. Il governo italiano sa che la Commissione sottolineerà probabilmente l'incertezza sul risanamento del bilancio nel 2014, ma spera che Bruxelles non chieda perentoriamente una nuova manovra di politica economica da adottare nei prossimi mesi. Più in generale, la Commissione chiederà all'Italia di introdurre riforme economiche secondo uno scadenzario preciso che, se rispettato, potrà consentire al governo italiano di chiedere maggiore flessibilità nell'impegno di riduzione del debito pubblico. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E noi siamo qua in diretta da Trento, dove si chiude oggi il Festival dell'Economia, e abbiamo in studio con noi Tito Boeri, che ne è il responsabile scientifico e l'anima di questo festival, senza dubbio. Buongiorno Boeri, benvenuto. Buongiorno. Benvenuto nei nostri studi. Allora, da quel che ci sembra di capire, dalle indiscrezioni che stanno arrivando, sembra proprio che, un po' come ha detto Renzi ieri, ha detto: il punto non è cosa ci raccomanda la Commissione, ma quello che i governi decideranno sulla prossima Commissione. Cioè, una commissione in scadenza non chiede una manovra correttiva, no? Soprattutto perché le ragioni per chiedere la manovra correttiva sono legate a delle valutazioni prettamente tecniche, a stime che sono soggette a notevoli controversie, perché la stima della disoccupazione strutturale o quella della crescita potenziale del nostro paese è qualcosa su cui gli economisti si dividono, e a quanto pare le richieste della Commissione si originano da differenze rispetto alle valutazioni forse un po' troppo ottimistiche del governo italiano. Sono un po' ottimistiche le valutazioni del governo. Noi abbiamo sentito sabato il ministro Padoan, ha detto no, per il momento le stime di crescita non le rivediamo, però un più 0,8 a fronte di un primo trimestre come è stato, un Istat che dice secondo trimestre tra un più 0,1 e un più 0,4 sembra un po' difficile. Sì, no? Sì, sono ancora un po' ottimistiche anche alla luce degli ultimi dati sulla produzione industriale che ci dicono che il paese è ancora in stagnazione purtroppo. Il Festival dell'Economia, parliamone, quest'anno è andata benissimo, avete avuto allora dal punto di vista delle persone tutti quelli che potevate avere. Il ministro dell'economia, il presidente del consiglio, l'amministratore delegato di Fiat Chrysler e tanta partecipazione anche quest'anno. Sì, io lo giudico soprattutto dalla partecipazione, non soltanto i numeri, le presenze, erano tutte le sale gremite con code fuori come e anche richieste di entrare, gente che si arrabbiava come se dovesse andare a un concerto, ma soprattutto la qualità delle presenze. Ieri è stato davvero bellissimo quando abbiamo chiesto prima dell'inizio del dibattito con Renzi ai presenti, perché volevamo dare la possibilità agli studenti di fare delle domande, abbiamo chiesto quanti studenti delle scuole secondarie e universitarie ci sono in sala e 3 persone su 4 hanno alzato la mano. E poi devo dire domande tutte molto pertinenti, persone che hanno seguito dibattiti anche su temi difficili, ieri abbiamo parlato proprio di banche, di governance, sono tutte cose che sono non di immediato, diciamo, appetibilità, e su questo grandissima attenzione. Poi abbiamo avuto un impatto molto forte non solo sulla stampa nazionale ma anche su quella internazionale. Oggi c'erano dei giornali tedeschi che titolavano sul festival. La cosa che però noi ci teniamo di più è quello che noi lasciamo in eredità, e questo è qualcosa che noi lasciamo sul sito del Festival dell'Economia, e devo dire che sono davvero tanti quelli che vanno a consultare. Sì, tra l'altro c'è un servizio di podcast ottimo sia per i video che per gli audio degli incontri. Classi dirigenti, crescita e bene comune, il tema di quest'anno. L'anno prossimo sono 10 anni del Festival dell'Economia, quindi qualcosa da celebrare? Vi siete già fatti un'idea o come da tradizione ci iniziate a ragionare proprio quando è finito? Beh, in realtà noi abbiamo una pianificazione biennale ormai, sì, del festival, e alcune delle persone, soprattutto quelle che sappiamo sono più difficili da raggiungere, da convincere a venire, le abbiamo già consultate, le abbiamo già invitate, quindi abbiamo già un'idea di massima dei temi. Poi sul titolo esatto ci ragioneremo da domani in poi. E ci può anticipare qualcosa? No. Non posso. Non... Grazie a Tito Boeri, che è economista, professore alla Bocconi, responsabile scientifico del Festival delle Economia, per essere stato con noi. Le auguro buona giornata. Grazie. E saluto Andrea Mentasti, direttore generale di SACBO, che è la società aeroportuale di Orio al Serio. Buongiorno. Buongiorno a voi. Avete riaperto oggi finalmente, quanto siete stati chiusi? Solo 20 giorni. Solo 20 giorni nei quali il traffico si è trasferito da a Malpensa, no? In questo periodo. Siete stati chiusi per fare dei lavori di ammodernamento, ci spiega in cosa consistono? Sì, diciamo che abbiamo rifatto completamente l'infrastruttura della pista. Tenga conto che era una pista che aveva circa 15 anni e che dopo questi lavori potrà affrontare le sfide dei prossimi 20 anni. Allora, avete fatto questi lavori, avete rimesso ordine. C'è una domanda che però io le voglio fare in quanto, come dire, appunto, responsabile e dirigente di una grande realtà aeroportuale che si è affermata nel nord Italia. Da Malpensa vi sembra destinata alla morte? No, credo di no, anzi spero di no. Perché guardi, noi siamo anche concorrenti di Malpensa e di SEA in generale, anche se SEA ha delle quote della mia società. Pur essendo concorrenti, io le dico che più forte va Malpensa, più tutte le società aeroportuali, noi in altri lavoreremo meglio. Per cui io faccio un gran tifo perché Malpensa raggiunga gli obiettivi che si sono prefissati. E senta, allora, alla luce di questo che ci dice, è preoccupato dell'accordo Etihad all'Italia? Etihad ha detto abbastanza chiaramente che su Malpensa non ha alcun interesse solamente all'Inate. Ma dunque, innanzitutto io dell'accordo, anche se oggi ci sono grandi titoli sui giornali, diciamo, di dettagli, non sa niente. Poi oggi avevo l'inaugurazione dell'aeroporto, certo. Non ho avuto ancora tempo di leggermi con attenzione i giornali. Diciamo che se alcune voci che giravano fossero confermate, qualche fonte di preoccupazione c'è sicuramente. Mm. Un'ultima cosa su di voi, quali sono gli obiettivi per i prossimi anni, prossimi diciamo 5 anni, nell'arco dei 5? Ma, senta, come lei giustamente diceva, noi abbiamo rifatto la pista, poi abbiamo un altro cantiere altrettanto importante che è l'ampliamento dell'aerostazione, cioè proprio la parte calpestata dai passeggeri, mentre quella che abbiamo terminato era calpestata dagli aerei. Noi ci metteremo in condizione da poco prima dell'Expo in poi di avere, come dire, fatto un bel lifting a tutta la nostra struttura, e con questa nuova, come dire, configurazione siamo pronti ad affrontare, come dicevo prima, i prossimi 15-20 anni. Diciamo che è il mercato che determinerà, come dire, quanto, a quanti volumi i passeggeri potremmo arrivare, non lo determiniamo da soli, noi siamo su un libero mercato, sono le compagnie aeree che decidono dove operare e con quali frequenze. Certo che avere un aeroporto rimesso nuovo aiuterà. Grazie a Andrea Mentassi, direttore generale di SACMO, che è la società aeroportuale di Orio al Serio. Le chiedo scusa se magari l'ho messa in imbarazzo con le domande su Malpensa, ma erano forse dovute. Carlo Genta, ci sei? Presente, eccomi qua Simone, ciao. Presente. Allora Carlo, ci sentiamo, cosa succede sulle strade e poi una chiacchiera con te sulla nazionale la dobbiamo fare. Certo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Una generazione più giovane merita di andare avanti. Sta parlando in questi minuti il re Juan Carlos nel discorso agli spagnoli, nel quale ha annunciato la sua abdicazione, gli succederà Felipe. Il Movimento 5 Stelle si divide sull'eventuale alleanza con Farage, Grillo dal blog parla di brogli. In arrivo le raccomandazioni della Commissione Europea per l'Italia, le raccomandazioni economiche naturalmente, probabile un invito a rispettare gli obiettivi di deficit ma senza richiesta di manovra correttiva. Resta alta la polemica sulla RAI per le parole di Renzi che parla di sciopero umiliante, lusigrai, prendiamo comunque atto che si vuole rilanciare il servizio pubblico ma no a tagli di organico. Anche di questo torneremo a parlare tra poco, ma adesso vogliamo parlare di calcio e delle scelte di Prandelli che stanno creando, come era prevedibile del resto, qualche polemica. Carlo Genta. Ogni mondiale come il Festival di Sanremo, Simone, se non c'è un po' di polemica non ci divertiamo punto, erebbero a Livorno. No, è chiaro che l'esclusione di Giuseppe Rossi, che era dall'inizio il tormentone di questo primo raduno azzurro, ha creato polemiche, creerà polemiche a infuocarle ulteriormente. C'è un tweet di questa mattina dello stesso Giuseppe Rossi, il quale ha detto: tutte balle, non è vero che non stavo bene, che non accettavo i contrasti di gioco, ci sono rimasto male, e quindi Giuseppe Rossi è piuttosto schietto in questo messaggio. Sì. Tutti dicono che sono fuori forma, chiedete chiunque i valori dei test in settimana della partita, vi stupireste. Contrasti, paura, che ridere, scrive Giuseppe Rossi. Arrivo col pensiero prima del difensore. Prossima volta da dilettante aspetto il difensore per prendere calci. Piccole precisazioni a cui tenevo. Quindi mi alla sembra faccia, estremamente alla chiaro. Alla faccia delle piccole precisazioni. Comunque l'esclusione di Giuseppe Rossi in fondo non sorprende più di tanto, perché fin dall'inizio di questo raduno dei 30 non erano mai state spese parole di grandissimo entusiasmo né da Prandelli né dallo staff medico della Nazionale nei confronti di Rossi. Sorprende probabilmente di più l'esclusione, cioè l'inserimento invece di Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, nella lista dei 30, nella lista dei 23, perché Insigne non ha giocato una grande stagione, anche se nell'ultimo mese ha fatto molto bene, doppietta in finale di Coppa Italia, eccetera, eccetera. Pare che sia davvero in forma dal punto di vista fisico, e dunque è stato inserito in questo roster che affronterà il Mondiale. Poi, ovvio, c'era il problema dell'infortunio di Montolivo, è stato tenuto parolo, è stato convocato, è stato inserito nei 23 Aquilani, che era in bilico. Verratti si è guadagnato sul campo i gradi di partecipante a questo mondiale, e magari per lui ci potrebbe essere una maglia da titolare proprio al posto dello sfortunato Montolivo. Rimane fuori anche Romulo, italo-brasiliano, il quale ha detto: ragazzi, non me la sento, sono al 70% della condizione, ho detto al mister convochi un altro. Grandissima onestà da parte di Romulo. Allora Carlo, naturalmente ne parlerete a partire dalle 2 in tutti i convocati. Noi adesso cambiamo decisamente argomento e parliamo di Rai. Corradino Mineo, senatore del Partito Democratico e una carriera, una vita in Rai prima di entrare in politica. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora, risentiamo prima di parlare con lei quello che ha detto ieri il Presidente del Consiglio. Tutte le discussioni sul ruolo dei partiti dentro la RAI, e mi permetta anche su questa francamente incredibile riflessione e polemica che nasce dal sindacato interno, che devo dirle, lascia il tempo che trovo, c'è soltanto un dispiacere forte. Se avessero annunciato lo sciopero la settimana delle elezioni, anziché il 48 prendevo il 42.8, è andata così, l'hanno annunciata dopo, è un peccato. Nessuno è perfetto, vogliono fare sciopero? Lo facciano. E poi andiamo a confrontare i numeri della RAI e quanto costano le sedi regionali. Vengano, noi non abbiamo fretta, non abbiamo furia, vogliono venire a fare questa discussione su questi numeri, la facciamo. Io invito la RAI a discutere del servizio pubblico e dei prossimi anni. Così, dunque, il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Allora, Mineo, che ne pensa? Tanto mi fa male sentire il Presidente del Consiglio che parla così della RAI, perché io nella RAI ci sono stato tanti anni, ho trovato anche delle bellissime persone, dei grandi professionisti, tanta gente che lavorava più di quanto non gli era richiesto perché aveva un'idea e avrebbe voluto cambiare le cose. Però purtroppo la situazione è quella, non si può ignorare che per 20 anni questa mia azienda si è accucciata all'ombra del conflitto di interessi, si è tenuta la concorrenza comoda, la non concorrenza in realtà, con Mediaset, e si è lasciata, come dire, sopravvivere nel sistema. Non si può far finta di non sapere che uno sciopero così in pompa magna non è stato indetto quando c'è stato l'editto Burgaro. E guardi che l'editto Burgaro di Berlusconi non riguardava solo due persone, riguardava proprio la carne viva dell'azienda, perché dopo l'editto Burgaro si è cominciato ad avere una RAI identica a Mediaset, che usava gli stessi procuratori per prendersi le star, che faceva la stessa demenziale programmazione di Mediaset. Cioè, non c'è stato uno scatto di orgoglio in questi casi, e purtroppo, devo dirlo, dirigenti e sindacati sono stati corrivi con l'andazzo generale. Questo noi ora paghiamo. Io sono preoccupato però, perché temo che alla fine a pagare non saranno quelli che hanno portato la mia azienda in queste condizioni, ma saranno tanti bravi che faranno loro le spese delle carriere manageriali. Mi spiego? E politiche, sì, perché sì, questi manager che dicono di non essere politicizzati sono quelli che vanno a cercare tutti i giorni il consenso a Palazzo Chigi. Se vuole sapere una cosa personale, una delle quando è che spuntava a Masi, l'ho incontrato tante volte, Mauro Masi, direttore generale della RAI, un velo di invidia nei miei confronti, quando vedeva che pur essendo sicuramente non un uomo della destra, io avevo rapporti personali da giornalista con parecchi leader della destra. Lui si sentiva abbandonato, era sempre lì pronto a trattare con questi, e perché questa era la sua ratio. Mi spiego, questo mondo non può reggere più. Senta Mineo, quindi è uno sciopero sbagliato questo dell'11 giugno. Io le confesso tra l'altro che ieri Renzi era qua a Trento, da dove stiamo trasmettendo oggi. Ho assistito all'intervento e la parte sulla RAI forse è stata quella più applaudita in assoluto, o comunque una delle più applaudite. Però posso dire una cosa, vero questo, sicuramente Renzi trionfa sulla RAI, però questo succede per due ragioni, in parte per le colpe, e mi pare di averne parlato, e per quello che ho potuto mi sono battuto contro i responsabili di questi misfatti dei dirigenti e purtroppo anche dei sindacati della RAI, ma in parte anche perché è passata una cultura per cui il privato è sempre bello, mentre il pubblico lo paghiamo noi, e su questo dovremmo un pochettino ritornarci indietro. Io sono contro i procuratori che trattano gli stipendi delle star Rai come gli stipendi delle star Mediaset. Però insomma l'idea che se un milione all'anno me lo dà il Corriere della Sera va benissimo, se la Rai ti dà 250.000 va malissimo perché sono soldi nostri, e diciamo mi pare un po' la conseguenza di un neoliberismo populista che si è formato in questi anni. Non so se mi spiego. È chiarissima la sua posizione, quantomeno. La ringrazio, grazie a Corradino Mineo, senatore del Partito Democratico, buona giornata. E adesso vi facciamo sentire, non abbiamo parlato di Broglie perché l'abbiamo intervistato questa mattina, sul tema invece dell'alleanza tra Grillo e Farage, ci ha raggiunto qua nei nostri studi a Trento Riccardo Fraccaro, deputato del Movimento 5 Stelle, l'abbiamo intervistato, sentiamo cosa ci ha detto. Di Farage, che cosa ne penso? Sinceramente la mia preoccupazione non è una preoccupazione politica, ma di metodo, di opportunità, nel senso che ritengo che per noi del Movimento 5 Stelle sia fondamentale trovare una disposizione all'interno del Parlamento europeo che non ci sottoponga nessun ricatto. Il problema è questo: il Parlamento europeo c'è un deficit democratico incredibile. Ancora oggi gli studenti a Trento di giurisprudenza, se studiano diritto comunitario, sanno benissimo di questo, di cosa sto parlando. E quindi un parlamentare europeo, se non è all'interno di un gruppo parlamentare, non ha possibilità di incidere con emendamenti, con proposte, eccetera. Quindi noi dobbiamo fare un gruppo per poter incidere. Dobbiamo trovare un gruppo che ci permetta la piena libertà e autonomia. Qualora il gruppo di Farage ci permettesse questo, io sono perfettamente d'accordo. L'importante è non trovare un gruppo, non entrare in un gruppo che nel momento in cui magari la politica nazionale presenta degli equilibri instabili, come succede adesso, con delle maggioranze molto incerte, soprattutto un elettorato incerto, ci metta sotto ricatto e quindi ci obblighi a votare a livello parlamentare. Ma non vi sposta comunque troppo a destra stare in un gruppo insieme all'UKIP? Sì, questa è l'immagine che può dare, però bisogna essere anche lungimiranti, anche entrare con i Verdi ci sporrebbe la può dare e la dà a tutti gli effetti questa immagine. Però ad esempio io sono eletto in Trentino, anche allearci con Ale, con il gruppo dei Verdi qui in Trentino, mi sposterebbe personalmente a destra, perché ci sono c'è il gruppo dell'estrema destra totesina all'interno del gruppo dei Verdi, per esempio. Cioè sono gruppi molto eterogenei e c'è un po' dentro di tutto, perché tutti i piccoli gruppi cercano una collocazione. I Freiheitlichen, per esempio, sono di estrema destra in Alto Adige e sono alleati con i Verdi, e sono uno di quei gruppi che si sta tenendo i vitalizi contro cui noi stiamo lottando, e dovremmo, per andare con i Verdi, allearci con quel gruppo contro cui stiamo facendo una battaglia in Alto Adige, in provincia di Bolzano. Cioè, gli equilibri politici a livello europeo sono molto difficili e hanno delle ricadute, tutti hanno delle ricadute a livello nazionale. Senta, l'eventuale alleanza con Farage o col suo gruppo andrà sottoposta al referendum, ai vostri referendum degli iscritti? E ulteriore domanda all'interno, questi referendum tra gli iscritti andranno dotati di una maggiore trasparenza? La trasparenza è la certificazione. E questo sicuramente l'abbiamo già iniziato a fare, della certificazione delle nostre votazioni online. Non sono facili, perché non ci sono società in grado oggi di farlo in tutte le votazioni, ma lo stiamo facendo, quindi sicuramente è fondamentale, anche perché noi dobbiamo poi stiamo anche sperimentando un sistema di votazione che vorremmo portare a livello nazionale. Oggi è anacronistico che si voti ancora, non si dia la possibilità ai cittadini di votare nelle elezioni politiche, referendarie, eccetera, con un sistema informatizzato. Però per fare questo si deve evolvere anche la struttura informatica. Ripeto, su Farage devono votare gli iscritti comunque. Sì, perché è una decisione che riguarda il gruppo Movimento 5 Stelle, non riguarda la nazione italiana, riguarda un gruppo politico. Sì. E quindi deve votare chi fa parte del gruppo politico. No, però dico, andrà sottoposta a votazione l'alleanza da fare in Parlamento europeo. Ma questo è stato detto fin dall'inizio. Quindi è stato confermato dallo stesso Casaleggio, da Grillo. E adesso ci fermiamo, una pausa, e poi ci ritroviamo per la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Una generazione più giovane merita di andare avanti, dice re Juan Carlos di Spagna, che ha abdicato, gli succederà Felipe. In arrivo le raccomandazioni della Commissione Europea per l'Italia, probabile un invito a rispettare gli obiettivi di deficit, ma senza richiesta di manovra correttiva. Dopo l'annuncio dello sblocca Italia arriva un primo parziale quadro delle opere ferme o mai partite, rigassificatori, tratte autostradali e non solo, per un totale di 372. Ne parleremo tra poco, ma ora è il momento della borsa. M come miglioramento continuo, M come module block. Vi presenta Borse in diretta. Isabella Tasso, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, ciao, buongiorno e buona festa della Repubblica anche a te. Buongiorno. Mezzo punto percentuale di guadagno sul FTSE MIB, altrettanto sul FTSE O'Share, positive complessivamente le banche, ma aria festiva da come vedo i movimenti. Sì, i volumi sono leggermente più bassi della media a causa appunto della giornata festiva. Gli indici restano comunque positivi anche a metà seduta. Sono arrivati stamattina dati deludenti sul fronte del PMI manifatturiero europeo e sull'inflazione tedesca, ma questi se da un lato frenano le aspettative di crescita, dall'altro aumentano le attese per le mosse che deciderà di prendere la Banca Centrale Europea nell'attesissimo consiglio di giovedì. Quindi indici per lo più in rialzo, soprattutto sui mercati periferici, Milano e Madrid. E grazie anche per oggi, Isabella. Buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E veniamo adesso all'annuncio, al nuovo annuncio del Presidente del Consiglio Matteo Renzi di un decreto, un provvedimento cosiddetto Sblocca Italia, con il quale si vuole dare il via libera a una serie di interventi, di cantieri che sono rimasti a lungo bloccati. Saluto Alessandro Beulke, che è Presidente di Aris, un'agenzia di ricerca e informazione, la società che gestisce il cosiddetto NIMBY Forum, che fa un'analisi proprio delle opere bloccate spesso per quella famosa sindrome che è stata definita NIMBY, appunto Not in My Backyard. Allora, Beuche, quante sono queste opere bloccate dal vostro censimento? Sì, buongiorno, buongiorno a voi. Ma le opere bloccate, secondo il nostro censimento, sono arrivate al numero di 354, questo l'anno scorso. Tra breve presenteremo i nuovi dati, che ancora non posso dare in anteprima perché li stiamo, diciamo, mettendo insieme, però 354 è il numero appunto dell'anno scorso di quelle opere, e come opere noi definiamo opere viarie, ferroviarie, centrale per la produzione di energia, anche rinnovabile, insomma qualsiasi tipo di cantiere si voglia realizzare in Italia, oggi è la maggior parte, 354 appunto, è il numero di quelle bloccate. Bloccate non solo e non tanto dalla cosiddetta sindrome NIMBY, Not in My Backyard, cioè quel fenomeno di la fermo Beucche, perché era proprio questo che volevo sentire da lei. Allora, Renzi ha detto oggi dovrebbe inviare questa lettera ai sindaci, dovrebbe partire questa lettera per i sindaci, nella quale gli dice: entro due settimane diteci quali sono le opere bloccate sul vostro territorio. Ma la mia domanda è: se alla sindrome NIMBY se ne sostituisce un'altra, la cosiddetta NIMTO, Not in My Term of Office, ossia non nel momento nel quale è attivo il mio mandato politico, non sono proprio i sindaci che rischiano di essere quelli che poi bloccano le opere? In qualche caso sì, quindi sarò molto curioso di vedere che tipo di lista stenderanno i sindaci, perché ci sono alcuni casi in cui sindaci stessi, piuttosto che diciamo politici locali, presidenti della regione e via discorrendo, sono essi stessi parte del fenomeno più che NIMBY, come dicevate direttamente correttamente, fenomeno NIMTO, e quindi diciamo territorio e politica locale che si mette di mezzo e per proselitismo elettorale, quindi per ergersi un po' a paladini della difesa del territorio, si mettono di traverso e non permettono la realizzazione di varie opere. Ricordo una su tutte: un rigassificatore, quello della Shell, 2001 era l'avvio del progetto, 2007, quindi 6 anni per fare le carte, quindi per mettere insieme tutte diciamo, le procedure per ottenere le autorizzazioni che poi quel tipo di progetto ottenne la valutazione di impatto ambientale positiva del Ministero dell'Ambiente, eccetera, eccetera, però il decreto non fu mai firmato dal presidente della regione di allora, cioè Lombardo. Non firmò mai quel decreto, la Shell e la ERG, che erano le prese, diciamo, la partnership che voleva realizzare questo tipo di rigassificatore, ripeto, autorizzato dai vari livelli centrali e non solo del che avevano il potere di autorizzare questo tipo di iniziativa, a un certo punto se ne sono andati dopo aver speso circa 25-30 milioni di euro solamente in procedure senza aver neanche messo un mattone e avviato un cantiere. Questo è un caso un po' meno noto rispetto ai tanti altri, quali la British Gas e via discorrendo. Quindi sì, certamente la politica locale è anche parte del problema. E vedremo se sapranno risolvere anche questo problema. La saluto, grazie ad Alessandro Beulke per essere stato con noi, e saluto Fabrizia Derriard, che è sindaco di Courmayeur, è già stata nostro ospite, ospite della nostra trasmissione, per parlare in realtà della frana nelle altre occasioni. La saluto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Non è della famosa frana di Courmayeur che vogliamo parlare in questo caso, ma di un referendum che non ha raggiunto il quorum. Era un referendum per cambiare nome alla città, sostanzialmente. Ci spiega un po' meglio? Sì, in realtà non era per cambiare completamente il nome alla città, ma era per raggiungere il nome Mont Blanc, cioè la montagna che ha accompagnato la storia di Courmayeur lungo tutto il suo percorso. Purtroppo ci sono dei quorum che, vista ormai l'astensione della popolazione alle varie elezioni, i quorum diventano ormai sempre più difficili da raggiungere, e in questo caso non si è raggiunto il quorum che prevedeva appunto il 50+1 degli elettori. Ci contavate molto voi perché pensavate potesse essere uno stimolo per il turismo, immagino, no? Ma due sono i fattori. Uno sicuramente di tipo culturale. All'aggiungere Mont Blanc a Courmayeur sarebbe stato davvero un segnale di riconoscenza, e soprattutto legato anche al territorio in cui abitiamo. Courmayeur deriva dalla storia, come ha cambiato diverse volte nome, no, durante la storia. Aggiungere Mont Blanc significava legarlo in modo indissolubile al suo territorio, alla sua natura e alla montagna più alta d'Europa. D'altra parte c'è anche ovviamente l'aggiungerlo per rendere più riconoscibile nel mondo il nome di Courmayeur. Infatti Mont Blanc è il nome che viene dato a Monte Bianco in modo universale a questa montagna, e dunque sarebbe stato un modo per renderlo più riconoscibile sui motori di ricerca, e dunque anche un risvolto positivo sull'economia del territorio, che è quella turistica. Ultima domanda, in un minuto, come va la famosa frana che minaccia un pezzo dell'abitato, di una frazione se non erro? La frana è assolutamente sempre sotto controllo, in questo momento ovviamente i cittadini sono rientrati nelle loro abitazioni perché c'è stato un forte rallentamento, è sempre sotto controllo, per cui c'è un monitoraggio costante che in caso di pericolo ci permetterà di mettere in atto tutte le azioni di nuovo di protezione civile. E grazie a Fabrizia. È tutto fruibile al momento. Bene, grazie a Fabrizia Derriard, sindaco di Courmayeur, le auguro buona giornata e noi sentiamo cosa succede sulle strade. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Varsavia. Mario Platero. Those who argue otherwise, who suggest that America is in decline, or has seen its global leadership slip away. America in declino, niente affatto, ha detto Barack Obama nel suo discorso di mercoledì scorso davanti ai cadetti di West Point. Dopo le parole ci vogliono i fatti. Per questo il primo appuntamento del presidente americano domani qui a Varsavia, dove sono per seguirlo in questo suo importante, anzi direi importantissimo viaggio europeo, e in un hangar dell'aeroporto militare dove atterrerà, per un incontro con avieri americani e polacchi.